Sono alla conferenza stampa di presentazione di una bellissima iniziativa, una scuola di ecopolitica, il cui sottotitolo è Gestire l'ambiente o abitare la terra, dall'ecologia all'ecosofia. Ne parliamo con Arturo Ciliegi. Io sono Arturo Ciliegi, faccio parte di questo gruppo neonato all'università che si chiama Ecologica per un sapere sostenibile. È nato appunto proprio per promuovere un dialogo, un dibattito su ambiente, ecologia, ma non solo, e quindi ci è parso che questa iniziativa fosse esattamente, avesse esattamente l'idea e l'obiettivo di ciò che perseguivamo anche noi, e quindi abbiamo aderito contentissimi a questa serie di incontri. Si tratterà appunto di una serie di incontri con professori, studiosi, sui temi più disparati, che tratteranno di ambiente, sì, ma non solo. Sarà una visione molto larga, anche l'ambiente dal punto di vista filosofico, scientifico ovviamente, ma anche culturale e artistico. L'obiettivo finale è proprio far maturare una cultura sulla società e in generale sul mondo che dopo noi vorremmo costruire e raggiungere. La visione globale, l'ideale, è secondo me quello che manca ed è quello che serve, il grande assente nel dibattito politico, ma non solo. E l'attivismo senza la visione globale, diciamo, si sente frustrato, sente la frustrazione di non riuscire ad evolvere qualcosa di più, e al contempo la politica senza l'ideale diventa un gioco di palazzo. E quindi io sento, diciamo, l'appello di Giorgio Gaber, che dice: e ora è venuto il momento di organizzarsi, di avere una linea, di unirsi intorno a un'idea. Dobbiamo costruire l'idea anche e soprattutto con la cultura, e l'obiettivo dell'organizzazione è proprio questa.